America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. We don't quit. I don't quit. Let's seize this moment to start anew, to carry the dream forward and to strengthen our union once more. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America. We don't quit, non molliamo. Il presidente Obama l'anno scorso durante il discorso sullo Stato dell'Unione, questa sera pronuncerà un altro discorso sullo Stato dell'Unione. Ricordiamolo, un appuntamento annuale con il quale i presidenti americani parlano al Congresso in seduta plenaria. È un momento di grande emozione perché sono schierati anche tutti i ministri, la Corte Suprema, insomma è un momento di grande unificazione per il Paese. E questa sera la tematica centrale del Presidente sarà soprattutto economica. Obama illustrerà due obiettivi su cui democratici di sinistra e repubblicani di destra, per parlare addirittura degli estremi, non potranno che trovarsi d'accordo. Si impegnerà a rilanciare l'occupazione e a ridurre un disavanzo pubblico insostenibile. È chiaro che si trovano tutti d'accordo sugli obiettivi, il problema è come raggiungerli e lì ci saranno un po' di differenze, ma di questo ne parleremo domattina, ne parleremo dopo il discorso, così potremo capire qual è l'atmosfera politica. Oggi vorrei parlarvi invece di quello che sarà l'aspetto più emotivo di questo discorso, un discorso che comporta anche la presentazione di storie americane, storie di eroi, storie di personaggi che sarebbero rimasti oscuri se non avessero avuto l'opportunità di mettersi in luce. E dunque cominciamo con delle storie economiche. Il presidente ha subito presentato due grossi personaggi del mondo dell'industria: Ursula Burns, amministratore delegato di Xerox, Wendell Weeks di Corning, che hanno una particolarità: hanno lavorato nella loro azienda partendo da zero e sono diventati poi amministratori delegati. Tutti questi personaggi sono ospiti nel palco di Michelle Obama, la First Lady. Il presidente ha poi parlato, ha raccontato la storia di piccole aziende, per esempio Gary Robert Allen, che con un prestito di $500 milioni avuto dal programma federale, dal Recovery Act del presidente, hanno realizzato una nuova fabbrica che fa tegole solari. Kendra Baker, Zachary Davis, sempre con un prestito del governo, hanno fatto un piccolo negozio di gelati che poi si è trasformato in una catena. Brandon Fisher, questa è una storia molto interessante perché la sua tecnologia di trivellazione ha salvato i 33 minatori cileni. Dall'eroismo di questi ragazzi passiamo all'eroismo che il presidente illustrerà, l'eroismo militare. Intanto il sergente Nicole Mohabir, che pensate dal 91 combatte e fino al marzo del 2010 ha partecipato all'operazione Enduring Freedom in Afghanistan, dunque una delle più grandi veterane americane. Ma la storia più importante, devo dire, è quella del sergente Salvatore Giunta, di origine italiana, italo-americana. Questo giovane militare, pensate che è nato nell'85, a 18 anni si è iscritto per andare in guerra e adesso di stanza a Camp Ederle, in Italia, appunto, da noi, vicino a Vicenza, ed è uno dei più grandi eroi ad appena 25-26 anni che l'America abbia mai avuto. Vi cito le medaglie: la Bronze Star, la Purple Heart, Army Commendation Medal, Leaf Cluster, Army Achievement Medal, National Defense Service Medal, Two Army Good Conduct Medal, Global War on Terrorism Service Medal. Quindi vi ho detto almeno 6 o 7 medaglie che ho già avuto, senza contare la più importante, e cioè la Medal of Honor per atti coraggiosi durante la guerra. Era stato ferito, si è buttato in una trincea per salvare i suoi commilitoni e è riuscito a salvarne due. La Medal of Honor è la più alta onorificenza militare americana, in genere viene data postuma, e pensate che questo ragazzo italo-americano è stato il primo militare a ricevere la Medal of Honor in vita dalla guerra del Vietnam. I'd like to start off by thanking Emily, but I also want to start off with a few words, the first of which is E Pluribus Unum. Never have those words ever been truer than they are today. Out of many, one thing that we have learned from this great tragedy is we have come together. On Saturday, we all became Tucsonans. On Saturday, we all became Arizonans, and above all, we all became Americans. Storie americane di eroismo militare, storie americane di eroismo civile, la voce che avete sentito di Daniel Hernandez è lo studente che lavorava come volontario con Gabriel Gifford, la deputata che è stata ferita a Tucson, è stato il primo a correre verso di lei per cercare di aiutarla e forse l'ha salvata. Sul palco ci sarà lui, ci sarà il dottor Peter Ree, che è diventato una celebrità, è un oscuro dottore che però ha un passato, cari miei, importantissimo. Pensate, ha esercitato in guerra a partire dal 2001, è stato in campi di battaglia in Afghanistan pericolosissimi, ha accudito centinaia di feriti nel deserto di Kandahar. Nel 2005 è stato in Iraq e adesso è medico al centro universitario di Tucson in Arizona. Ecco, sarebbe rimasto uno straordinario personaggio non conosciuto dalla nazione se non avesse salvato Gabby Gifford. Infine, il momento più toccante sarà quando Barack Obama presenterà, sempre nel palco con Michelle, la famiglia Green. John e Roxana sono i genitori di Christine Taylor, la bambina di 9 anni che è stata uccisa durante il tentativo di attentato a Gabrielle Gifford. Una storia che ricorderete tutti, ha sconvolto l'America, ha sconvolto il mondo, questa bambina che era nata l'11 settembre del 2001 e che era straordinariamente brillante, uccisa così in un evento politico in un supermercato. L'intero paese, l'intero congresso si alzerà in piedi, renderà omaggio a questi genitori che hanno perduto la loro figlia in un attentato che resta per tutti privo di senso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 15 anni di assenza, la Gang of Four è tornata sul mercato, un gruppo che aveva ispirato negli anni 80-90, ad esempio i Nirvana. La nuova canzone nell'album Content che vi propongo è I Party All the Time. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.